conti tutti i tuoi segreti e di sogni fatti in lingerie, del triangolo e i suoi gattetti, giallo miele di Venere. Sognami adesso, la vita è ora, che poi domani chi lo sa. Sono una mela rossa e ricca, mangiami ora, sono qua. Eva, nel tuo giardino c'è la mia libertà. Sono di nuovo Adamo. Nascondi dentro il cellulare, nessun nome, nessun perché, femminile è singolare, e triangolo è Venere. Sognami adesso, la vita è ora, e poi domani si vedrà. Sono la mela rossa e ricca, prendimi adesso, sono qua. Eva, nel tuo giardino c'è la mia libertà, sono di nuovo.